l'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. In un paese che conta 8.000 km di coste, il sistema portuale e marittimo potrebbe essere un vero e proprio forziere carico di gioie. Eppure in Italia ancora oggi si perdono grandi occasioni di crescita. Un esempio? Circa 1 milione di container con merci destinate al nostro paese viene sdoganato a Rotterdam invece che negli scali nazionali. Le inefficienze logistiche, la mancanza di dialogo fra le diverse forme di trasporto sono alla base dell'impasse di un settore così importante. È anche per questo che è stato varato il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, che attende ora di essere portato a compimento definitivo. Ma quanto manca per arrivare a questo traguardo? E quali sono le prospettive di creare un sistema realmente competitivo a livello europeo e capace di attrarre i traffici internazionali? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato dalla scheda iniziale, oggi ci occuperemo di portualità italiana, ma parleremo anche di quello che sta succedendo nel resto del mondo, ad esempio con l'allargamento del canale di Panama, e facciamo tutto questo in compagnia di Luigi Merlo, che è il consigliere del ministro Del Rio per quanto riguarda le tematiche della portualità e della logistica. Merlo, proprio qualche giorno fa, in settimana, il ministro Del Rio è stato ascoltato dalle commissioni trasporti e lavori pubblici del Parlamento per fare un po' il punto di questa riforma della portualità. Ecco, a che punto è questa riforma? La riforma è a buon punto, bisogna anche dire che si tratta di una riforma che è l'attuazione del piano strategico sulla portualità e sulla logistica, che procede per step separati. C'è stato un provvedimento importante sui dragaggi, ci sono stati provvedimenti per mare bonus e ferro bonus, e ora si sta intervenendo con la riforma della governance, cioè la nuova struttura di governo della portualità italiana, sia con questa novità delle autorità portuali di sistema attraverso la riduzione da 24 a 14-15 autorità portuali di sistema, sia con la creazione di un coordinamento nazionale teso a avviare finalmente la programmazione nazionale della portualità, che è mancata sino ad ora in maniera strutturale e che oggi invece avrà, dopo la riforma, finalmente un punto di riferimento di carattere nazionale anche rispetto alla necessità di confrontarsi con mercati sempre più globali, sempre più complessi. Ecco, il ministro Del Rio in audizione in Parlamento ha parlato anche di nomine che arriveranno entro l'estate. Di che cosa si tratta? Oggi gran parte dei porti, parliamo anche dei porti più rilevanti, pensiamo a Napoli, pensiamo a Genova, pensiamo a Trieste, pensiamo a Livorno, sono commissariati e attendono un nuovo presidente. Non si è proceduto con le nomine perché si attende la riforma per dar vita a questo nuovo ruolo del presidente di autorità portuale di sistema. Quindi entro luglio la riforma sarà approvata in maniera definitiva dal Consiglio dei Ministri e poi si potrà procedere attraverso l'intesa tra Governo e Regioni alla nomina dei nuovi vertici, con novità importanti perché scompariranno i vecchi comitati portuali e nasceranno i comitati di gestione molto più snelli, molto più operativi e con poteri anche superiori rispetto al passato. Cosa dice l'Europa su questa riforma? L'Europa, diciamo, sollecita da tempo questa riforma, individua la necessità di adeguamento del nostro sistema al sistema europeo. Non a caso il perno della riforma fa sì che le autorità portuali di sistema sono quelle legate ai corridoi, alle reti TEN-T e quindi al disegno strategico che l'Europa si data sul sistema portuale. Proprio a proposito di nomine, si interseca con questo provvedimento anche le nuove regole Madia sugli incarichi nella pubblica amministrazione. Che impatto avranno queste regole? Beh, i presidenti dovranno avere, come dire, le stesse indicazioni, le stesse livelli massimi anche per quel che riguarda i redditi dei vertici degli enti della Madia. Per quel che riguarda invece l'organizzazione dell'ente, rimarranno salvi le caratteristiche peculiari delle autorità portuali di sistema, in particolar modo la non applicazione ai dipendenti delle autorità portuali del contratto del pubblico impiego, perché sono regolati da un contratto di tipo privatistico, che è il contratto dei porti, che sarà mantenuto. Abbiamo parlato prima di Panama, questo perché a Panama qualche giorno fa è stato inaugurato l'allargamento del canale. Ascoltiamo questa scheda. Un gigante da 300 metri di lunghezza, 50 di larghezza e 10.000 container a bordo ha inaugurato lo scorso 26 giugno il nuovo canale di Panama. Un lavoro di ingegneria ad alto tasso di Made in Italy, che in 7 anni ha richiesto 100 milioni di ore di attività e nei momenti di picco 11.000 persone al giorno. L'ampliamento consisterà il passaggio di navi fino a 3 volte più grandi, in grado di trasportare fino a 12.000 container. Il canale di Panama nasce nel 1914 grazie all'iniziativa degli Stati Uniti, ma ha radici in un tempo più lontano, quando con la scoperta del Nuovo Mondo esploratori e regnanti cominciarono a pensare a un passaggio dall'Atlantico al Pacifico. Il potenziamento della struttura ha un'importanza strategica principalmente per il mercato statunitense e per quello cinese, ma potrà avere ripercussioni anche per i traffici da e per il Mediterraneo. Panama arriva dopo qualche settimana, qualche mese, dal nuovo canale di Suez, quindi il mondo si sta muovendo sul fronte del trasporto marittimo. Che impatto hanno questi avvenimenti sul traffico del Mediterraneo e ovviamente sul traffico italiano? Ma intanto bisogna dire che questi interventi importanti hanno una ragion d'essere legata al gigantismo navale, che è il fenomeno che sta rivoluzionando il traffico delle merci containerizzate nel mondo. Per Panama è ancora un passaggio, perché ricordiamo che a Panama è stato fatto un intervento rilevante, ma per navi massimi di 13.000 TEU, quindi 13.000 container, non per le navi da 18.000 o da 20.000 che interessano invece Suez. Quindi per noi è importante lo sviluppo di Suez e l'opportunità che dà di un incremento del traffico, diciamo Far East verso Europa. E quindi proprio questa riforma della governance serve anche per recuperare traffici e parte di mercato che oggi andavano e vanno nei porti del nord Europa e che possiamo, attraverso una competitività maggiore, recuperare per il nostro sistema. Ecco, però solo pochi porti italiani possono accogliere queste grandi navi portacontainer. Mi viene in mente Gioia Tauro e forse pochi altri. Gioia Tauro per quel che riguarda transshipment, sì. Genova con il recente investimento da 100 milioni di euro che ha fatto il terminalista, che è PSA di Singapore, il porto di Trieste e per navi appena inferiori anche il porto della Spezia, che sta intervenendo con i dragaggi. Diciamo che i grandi porti destinazione finale italiani si sono organizzati o si stanno organizzando per questo tipo di risposta. Ecco, ma questo gigantismo navale non sta provocando anche dei contraccolpi sul mercato? Si parla di un vero e proprio crollo dei noli, dei container negli ultimi mesi. Sì, perché si è determinato un combinato strano. Si è arrivati, come dire, alla messa in disposizione di tutte queste grandi navi nel maggiore punto di crisi, che segue la crisi del 2008, e quindi quando i traffici hanno subito complessivamente un rallentamento. C'è una sovracapacità, una offerta maggiore rispetto alla domanda, c'è questo grande fenomeno dell'aggregazione tra le grandi compagnie, tra i grandi gruppi, e questo fa diminuire, come dire, il prezzo dei noli. E quindi questo fenomeno è un fenomeno molto particolare che determina anche una concentrazione in pochi porti dei traffici e quindi un ridisegno complessivo della geografia portuale a livello mondiale. Noi siamo pronti con la nostra riforma a cogliere anche le opportunità legate a questo nuovo scenario? Assolutamente sì, è questo l'obiettivo che ci stiamo dando, anche con una tempistica molto forte. Stiamo efficientando molto un aspetto che viene sottovalutato ma è fondamentale, che è tutto quello legato ai servizi informatici, al pre-clearing, allo sdoganamento a mare, che ha ridotto drasticamente la sosta dei container dei porti, e a tutti i servizi di implementazione che si stanno sviluppando con l'Agenzia delle Dogane. Partirà anche lo sportello unico che aggregherà anche gli altri soggetti di controllo, e quindi questo elemento è assolutamente all'avanguardia a livello europeo. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo l'ospite di oggi, Luigi Merlo, consigliere del Ministro del Rio per la portualità e la logistica. L'appuntamento con la nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Vi ricordo, prima di lasciarci, il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autori.